Sapevo che ti avrei dedicato un testo, ma non immaginavo che sarebbe stato questo. Invece mi accorgo di aver sbagliato, in tutti questi anni diversa t'ho immaginato. So che una delusione può essere pesante, ma questa le ha battute tutte e sai sono tante. Tra quelle cui mi son dovuto abituare, è stata la peggiore, non si può cancellare. Ok, si sa che nessuno è perfetto, anch'io sovente non riesco ad essere schietto. Ma per il tuo assurdo comportamento non cerco spiegazione, perché non c'hai, lo sento. Perciò puoi pure uscire dalla mia vita, mi chiedo come cazzo è che c'eri finita. Quando qualcosa in futuro t'andrà storto, mi cercherai ma per te io sarò come morto. Nel tuo mondo di falsità ti ritroverai sola, questa è la verità. Poi mi cercherai, già lo so, peccato che quel giorno per te io non ci sarò. Nel tuo mondo di falsità ti ritroverai sola, questa è la verità. Poi mi cercherai, già lo so, peccato che quel giorno per te io non ci sarò. Eppure ti vedevo un po' diversa, e non una ragazza che pensa solo a se stessa. Cerchi la gente quando è conveniente, e poi dici che sono gli altri a farlo veramente. Il bello è che lo fai coi vecchi amici, distribuendo sorrisi falsi ma felici. Ma da oggi in poi amici ne avrai meno, e sarei tu a capire se dovrai darti un freno. La cosa che di più mi ha sconvolto è che ero uno di quelli su cui contavi molto. E molto bene, mi hai preso per il culo, si vede che io ero il numero uno. Nella tua lista con nomi da eliminare, sei riuscita a convincermi, non ti starò a cercare. Da oggi in poi per me più non esisti, di te ho tanti ricordi ma troppi quelli tristi. Nel tuo mondo di falsità ti ritroverai sola, questa è la verità. Poi mi cercherai, già lo so, peccato che quel giorno per te io non ci sarò. Nel tuo mondo di falsità ti ritroverai sola, questa è la verità. Poi mi cercherai, già lo so, peccato che quel giorno per te io non ci sarò. Come potrei darti una possibilità se non la meriti? Mi eviti ma un giorno mi cercherai, credici e medita su questa cosa. Te ne sei andata in maniera vergognosa, fiera di ogni tua posa. E adesso cosa ti ho fatto? Me lo potresti dire, visto che ancora son qui che non riesco a capire. Capisco che forse un perché non c'è, capisco che solo perché non hai più bisogno di me. Ma tu non preoccuparti, sei riuscita nel tuo intento. Mi allontano lento, prima con sgomento, ma poi ben contento di non far parte della cerchia di persone che tu hai scelto, pronte a scattare quando per te è giusto il momento. Non mi pento, voglio cancellarti, anche se mi rode. Se tu sarai in un posto, io sarò altrove. Se prima di te avevo una grande considerazione, mo per me puoi fotterti, non c'è questione. Nel tuo mondo di falsità ti ritroverai sola, questa è la verità. Poi mi cercherai, già lo so, peccato che quel giorno per te io non ci sarò. Nel tuo mondo di falsità ti ritroverai sola, questa è la verità. Poi mi cercherai, già lo so, peccato che quel giorno per te io non ci sarò. Nel tuo mondo di falsità ti ritroverai sola, questa è la verità. Poi mi cercherai, già lo so, peccato che quel giorno per te io non ci sarò. Nel tuo mondo di falsità ti ritroverai sola, questa è la verità. Poi mi cercherai, già lo so, peccato che quel giorno per te io non ci sarò. She was just a bitch, she was just a bitch, she was just a bitch, she was just a bitch, she was just a bitch, she was just a bitch, she was just a bitch, she was just a bitch.